tramonta il sole. Lunaticamente tutto, tutto nella mente. Sopra i ponti di Azkaban, paesaggio surreale lunatico, ubriaco fradicio. Anche fradicio un'altra Lucky Strike. Viaggiare dentro un mare di psiche assolata. Assolata. Vivere. Maschia, maschia. Salvador Dalí. Eric Clapton. Mozart. Maestri, svegliatevi dalle vostre tombe all'aldilà. Un'altra faccia della luna si aprirà. Aprirà. Aprirà.